wonderful day, wonderful day, wonderful. Sono tutte e tutte per te, le stelle dell'universo, i mari, i monti, i fiumi, i pianeti, le comete del firmamento, il respiro delle pianure, le galassie di ogni cosmo, gli alberi di melagrano, sono tutti dentro la tua mano. Forse tu non sai che hai tanti nomi, tanti fiori nei tuoi balconi, tante vite, tanti gioielli, tanti quanti sono i tuoi occhi belli. Non mi dire tutti i tuoi segreti, i tuoi sogni sono i tuoi tesori, la tua terra è anche il mio cuore, il mio cuore è tutto per te, amore. Wonderful day, wonderful day, wonderful day, wonderful day, wonderful day, wonderful day, wonderful day, wonderful day. Sono tutte e tutte per te, le stelle dell'universo, i mari, i monti, i fiumi, i pianeti, le comete del firmamento, il respiro delle pianure, le galassie di ogni cosmo, gli alberi di melagrano, sono tutti dentro la tua mano. Oggi è il giorno delle meraviglie, nelle strade ballano farfalle, hai cambiato in luce questo giorno, sei la mia gioia, il mio sguardo profondo, fai ballare sempre il tuo cuore, che è la sola cosa che ci salva, amore. Tutto il resto lascialo ai senza cuore, per te c'è un altro destino, amore. Forse tu non sai che hai tanti nomi, tanti fiori nei tuoi balconi, tante vite, tanti gioielli, tanti quanti sono i tuoi occhi belli. Non mi dire tu wonderful day, i tuoi sogni sono wonderful i tuoi tesori day, la tua terra è anche il mio cuore, il mio cuore è tutto per te, amore. Wonderful day, meraviglie nelle strade ballando farfalle, hai cambiato luce questo day giorno, sei la mia wonderful gioia, il mio sguardo profondo, fai ballare wonderful sempre il tuo cuore day, che è la sola wonderful cosa che ci salva, day, amore. Tutto il resto lascialo ai senza day cuore, per te c'è un altro destino, amore. Sono tutte tutte per te, le stelle dell'universo, i mari, i monti, i fiumi, i pianeti, le comete del firmamento, il respiro delle pianure, le galassie di ogni cosmo, gli alberi di melagrano, sono tutti dentro la tua mano. Sono tutte per te, le stelle dell'universo, i mari, i monti, i fiumi, i pianeti, le comete del firmamento, il respiro delle pianure, le galassie di ogni cosmo, gli alberi di melagrano, sono tutti dentro la tua mano. Wonderful day, tutte per te, le stelle dell'universo, i mari, i monti, i fiumi, i pianeti, day, le comete del firmamento, il respiro wonderful delle day pianure, le galassie wonderful del cosmo, gli alberi di melagrano, sono tutti nella tua mano. Wonderful day.